giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Oggi 25 aprile, la festa della liberazione, data simbolica dell'arrivo della democrazia in Italia. In ogni comune della regione le cerimonie e i ricordi di quella primavera di fuoco e di speranza di 78 anni fa. La manifestazione più solenne stamattina nella Risiera di San Sabba a Trieste. La liberazione dal nazifascismo in Friuli Venezia Giulia avvenne qualche giorno più tardi con il progressivo ritiro delle truppe tedesche. La nostra intervista allo storico Giancarlo Bertuzzi per ricordare gli avvenimenti che portarono alla nascita della Repubblica. Trasmettere i valori del 25 aprile, una sfida nelle scuole per non ridurre la giornata a una vacanza o a una lezione di storia. Negli istituti scolastici, alle medie, alle superiori soprattutto, lo sforzo per non far cadere nella ritualità una giornata da dedicare ai principi e alle regole della democrazia, della libertà e del confronto. Oggi il primo dei due ponti che da giorni stanno riempendo di visitatori italiani e stranieri, piazze, musei e alberghi, vale per tutta la regione, soprattutto per le località di maggior richiamo, e vale per Trieste, che sembra essere tornata alla sua vocazione turistica. La cronaca a Udine, i primi esiti dell'autopsia effettuata sul cadavere di Luca Tisi, l'uomo ucciso il 15 aprile. I pendenti inferti dall'assassino sono stati molti di più di quei 30, già un numero enorme, di cui si era parlato in seguito al primo esame sul corpo. Un accanimento orrendo e inspiegabile. Domani è la riapertura delle scuole, ma a Muggia resterà ancora sospeso il servizio di refezione. Lo ha disposto l'azienda sanitaria in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio sul cibo servito giovedì scorso, quando una cinquantina di bambini erano stati male. Gli spettacoli e il giorno del ritorno di Roberto Bolle, l'étoile del corpo di ballo del teatro alla Scala, calcherà stasera il palcoscenico del Rossetti. È martedì 25 aprile 2023, sono le 8:32 minuti e 30 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Buona festa della liberazione. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo subito com'è il tempo. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Le temperature alle ore 8. A Trieste 14 gradi, a Gorizia 11, a Pordenone 10, a Udine 11, Tolmezzo 5 gradi, Forni di Sopra 3 e 5, Piancavallo 4, a Tarvisio 5 decimi, a Sappada meno 2, sullo Zoncolan 1 grado, sull'Ussari 1,5, a Grado 12 e 5, a Lignano 11. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: durante la giornata condizioni di variabilità e fino al tardo pomeriggio saranno possibili piogge sparse, deboli o moderate, ma localmente anche abbondanti con possibili rovesci e temporali. Quota neve a circa 1300 metri, ci sarà un deciso miglioramento in serata. Sarà come sempre Trieste il luogo della manifestazione principale della festa della liberazione dal nazifascismo. La commemorazione più significativa e più toccante alle 11 alla Risiera di San Sabba. Saranno presenti i rappresentanti e i labari di vari gruppi, enti, delle associazioni dei volontari della libertà, dei caduti, delle associazioni combattentistiche e d'arma, dei sindacati, del Comitato Internazionale del Lager Nazista della Risiera di San Sabba, oltre alla bandiera della Brigata Ebraica, che inquadrata nell'ottava armata dell'esercito britannico contribuì alla liberazione dell'Italia. La cerimonia inizierà con la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto di Trieste Signoriello, dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, del sindaco di Trieste Di Piazza. La celebrazione continuerà con i riti religiosi: cattolico officiato dal vescovo Monsignore Enrico Trevisi, ebraico a cura del rabbino capo della comunità ebraica Paul Alexander Meloni. Per la comunità greco-ortodossa il rito sarà officiato dall'archimandrita Gregorius Miliaris, per la comunità serbo-ortodossa da padre Raško Radović, per le chiese protestanti Gudrun Martini, rappresentante della chiesa evangelica luterana. E alle 12:15 una delegazione dell'amministrazione comunale andrà a deporre corone d'alloro sui luoghi simbolo che onorano la memoria dei caduti della Resistenza, tra cui il monumento ai caduti in via dell'Istria, il cippo della Resistenza nel parco della Rimembranza, la lapide ai caduti antinazisti del 44 in via Massimo D'Azeglio, il cippo che commemora i 71 fucilati condannati dal Tribunale Speciale al poligono di Villa Opicina. A Udine le cerimonie avranno inizio con la deposizione della corona al cimitero britannico di Tavagnacco alle 9. Previsto poi un ritrovo in piazza Primo Maggio alle 9.45 per raggiungere in corteo piazza Libertà. Dopo l'alzabandiera e la deposizione delle corone al tempietto dei caduti, seguirà la lettura delle motivazioni delle medaglie al valor militare alle città di Cividale, Tolmezzo e Udine. Il corteo raggiungerà poi il monumento alla Resistenza in piazzale 26 luglio alle 11.30. Dopo la deposizione delle corone, i temi di Resistenza e Costituzione saranno al centro di riflessioni proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dalle 15 nel Parco Rubia di Pradamano si rinnoverà Resistenza in Festa, manifestazione alla 13ª edizione in cui musica, canti e parole ricorderanno le lotte di ieri per la libertà e la democrazia e l'impegno di oggi per una società antifascista e antirazzista. L'iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. A Pordenone, a piazzale Ellero dei Mille, l'alzabandiera alle 9.40, a cui seguirà la deposizione di una corona al monumento ai caduti. A seguire, alle 10.30 in piazzale Maestri del Lavoro, la deposizione di una corona e i cippi dedicati a Franco Martelli e Terzo Drusin, partigiani uccisi dai nazifascisti. A Gorizia alle 8.30 alza bandiera solenne in piazza della Vittoria. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha affermato in un comunicato che il 25 aprile è una data scelta convenzionalmente in Italia per festeggiare la liberazione dal nazifascismo, ma Gorizia, come peraltro anche Trieste, ha scelto il 12 giugno per festeggiare la sua liberazione dalla feroce occupazione da parte dei partigiani comunisti jugoslavi. Pertanto il 12 giugno si terrà un alzabandiera nel Parco della Rimembranza. Ma come avvenne la liberazione del Friuli Venezia Giulia dal nazifascismo? Quali furono i tempi in cui il territorio che oggi compone la regione fu abbandonato dalle forze tedesche? A Giancarlo Bertuzzi, già docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, abbiamo chiesto una breve sintesi degli avvenimenti della primavera del 45. Praticamente negli ultimi giorni del mese di aprile e i primissimi giorni di maggio, intorno al 26-27 cominciava la mobilitazione sia dei partigiani che scendevano dalle montagne verso le aree urbane, sia la mobilitazione di quelli che erano dei collaboratori presenti nelle varie località che non erano partigiani attivi ma erano pronti, insomma, collaboravano, erano pronti a intervenire. E si svolse quasi in contemporanea con l'avanzata alleata per la parte, diciamo, occidentale, quindi dal 27 al 28 a Pordenone, il 27 a Palmanova, dove venne aperta la caserma Piave, dove era un luogo di tortura, e si arriva al 30 aprile, 1 maggio, per quanto riguarda la città di Udine, dove intervengono prima i partigiani la sera prima e dopo il pomeriggio del 1 maggio arrivano i soldati alleati lungo Viale Venezia, praticamente provenendo da ovest, mentre la città era già liberata. In certe situazioni, come a Pordenone ma anche a Spilimbergo, ci fu un doppio momento per cui colonne tedesche in ritirata rioccuparono delle città per un breve tempo per poi allontanarsi. La guerra praticamente non è finita nel 25 aprile, quindi finirà il 9 maggio, quando ci sarà la resa formalmente, la resa tedesca in Germania. Per cui anche per questo motivo gli alleati arrivavano al confine del Reich appena l'8-9, ai confini a Tarvisio o a Tolmezzo, a Paluzza. Per gli alunni più giovani, lontani sia in termini cronologici sia nelle condizioni quotidiane dalla lotta per la democrazia avvenuta 78 anni fa, è forse difficile comprendere quanto avvenne. Ma com'è possibile trasmettere ai ragazzi i valori connessi al 25 aprile? Lo abbiamo chiesto a Cinzia Politi, insegnante di lettere e vicepreside dell'Istituto Comprensivo Carducci Dante di Trieste. Io lo faccio veramente con molta semplicità, provando appunto a farli mettere nei panni di quei partigiani che quando scelsero appunto di combattere avevano proprio la loro età, e quindi a mio parere da insegnante di lettere metto al centro proprio la lettura, in questo caso di alcune opere narrative che sono appunto testi meravigliosi come Sentiero dei Nidi di Ragno di Calvino, oppure Il partigiano Johnny di Fenoglio, oppure Pavese Pugliese, con la Casa di Cosina, sono tutti autori che chiaramente hanno vissuto in prima persona quegli avvenimenti della Resistenza e che in qualche modo possono essere letti già a partire dal biennio fino ad arrivare, con ovviamente le dovute differenziazioni, fino al quinto anno. A questi si accompagna chiaramente un dibattito in classe, un confronto sui temi, e in questo modo i ragazzi più giovani del biennio, ma anche del terzo e quarto anno, possono in qualche modo apprendere e confrontarsi non solo con l'insegnante ma anche tra di loro. Quindi diciamo che lo strumento forse più efficace da questo punto di vista è l'empatia, cioè mettere veramente a contatto i ragazzi, i giovani, con la lettura. Purtroppo testimoni ce ne sono sempre meno in carne ed ossa, lo vediamo anche per altre giornate come quelle della memoria o del ricordo, quindi questo diciamo è lo strumento secondo me più efficace per arrivare ai giovani. E Trieste è tornata alla città turistica che avevamo conosciuto fino allo scoppio della pandemia, e queste giornate, col favore dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, hanno riempito gli alberghi. La città è piena, le nostre strutture sono piene sia per l'albergo, 5 stelle, 4 stelle, anche gli appartamenti, addirittura quelli appena aperti sono già stati presi d'assalto, per cui siamo molto contenti, sì. Sono parole del concierge Ramon Schuerch. Il lungo ponte del 25 aprile ha portato a Trieste tanti turisti. Come spiegano gli albergatori, indaffarati per il flusso costante, in molti casi le prenotazioni hanno toccato il 100%. La città, dicono, è stata presa d'assalto. Sono soprattutto turisti italiani, dato che la festività è solo nazionale, ma si registrano anche numerosi stranieri. Lorenzo Vidoni, albergatore. Abbiamo avuto anche tedeschi, abbiamo avuto un ritorno anche di Stati Uniti, molti francesi, noi lavoriamo molto con i francesi. Il picco più alto, spiegano, si è toccato sabato, ma i numeri, anche se un po' in calo, sono rimasti alti anche nei giorni successivi, anche andando incontro al maltempo. Secondo le previsioni, la stessa tendenza si avrà anche per il weekend del 1 maggio. Confermo, per il 1 maggio stessa situazione, si concentra molto, iniziano ad arrivare il venerdì, si concentra molto il sabato, va un po' a scemare, ma non tanto, perché comunque dal 100% del sabato al 70% della domenica. Il 1 maggio è un lunedì, è come se fosse una domenica. Maggio è un mese caldo, dicono, in fatto di prenotazioni, e tra gli eventi che attireranno i visitatori in città figura anche la Dunata Nazionale degli Alpini, che si terrà però a Udine. Mario Sanzone, albergatore. Sì, abbiamo richieste anche per il raduno degli alpini, sono comunque eventi che portano ovviamente maggior affluenza in città. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca, iniziando con l'esito dell'autopsia sul corpo di Luca Tisi, il 58enne senza fissa dimora ucciso a Udine il 15 aprile nella galleria vicino a Piazzale Osoppo, dove trovava rifugio durante la notte. Il risultato dell'esame autoptico, fa sapere la procura, è coerente con le risultanze investigative acquisite, con le stesse dichiarazioni dell'indagato. Dall'autopsia emerge che le coltellate inferte, diverse decine, sarebbero molte di più di quelle riscontrate al primo esame. In un primo momento si era infatti parlato di 30 fendenti. Il presunto colpevole, il 28enne Bruno Macchi, reo confesso ora in carcere, sarebbe stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza che lo hanno inquadrato durante la fuga in bicicletta dal luogo del delitto in un orario compatibile con l'aggressione mortale. Luca Tisi è stato ucciso con decine di coltellate e un colpo alla testa. Il coltello seghettato da sub, consegnato agli investigatori da Macchi, è compatibile con le lesioni rinvenute sul corpo della vittima. L'intossicazione di una cinquantina di bambini delle scuole di Muggia. Domani il servizio di refezione scolastica resterà chiuso, lo ha stabilito ieri l'azienda sanitaria in attesa delle analisi di laboratorio sui pasti. Domani si porteranno il pranzo da casa i 700 alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Lucio di Muggia e quelli della scuola privata di Trieste, travolti da una brutta intossicazione alimentare. Resta chiuso infatti il centro cottura muggesano gestito dalla multinazionale Sodexo, che da una decina di anni si occupa di rifornire di pasti le scuole. Il Dipartimento di Prevenzione di Asugi autorizzerà la riapertura della cucina solo una volta in possesso dei risultati di laboratorio, che dovrebbero arrivare domani. I 60 bambini e 10 docenti che si erano sentiti male venerdì mattina ora sono guariti, ma aspettano di capire che cosa ha provocato l'intossicazione. Non era mai accaduta una cosa simile, fanno sapere il sindaco di Muggia Polidori e la dirigente scolastica Anna Falcetta. Non sarebbe stato un batterio a scatenare l'intossicazione, ma più probabilmente un virus. Lo fa pensare il fatto che alcuni genitori hanno riscontrato gli stessi malori dei figli. Sodexo ieri mattina è stata convocata in comune per i riscontri sulle sanificazioni. L'azienda si sta mostrando collaborativa e consapevole di essere in qualche modo responsabile dell'accaduto. Sono tanti i genitori che vorrebbero tornare ad avere la cucina all'interno delle scuole, come si faceva tempo fa e come ancora accade in alcune realtà del territorio. Sarebbe bello, dice la dirigente, darebbe un valore diverso al momento del pasto, ma sono decisioni in capo al comune, non alla scuola. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, lieto evento stamattina in un'abitazione di Pasiano di Pordenone, dove una bimba è nata prima dell'arrivo dell'ambulanza e grazie all'aiuto fornito al telefono dai sanitari del 118. La telefonata del papà è giunta alla sala operativa del numero unico di emergenza alle 5:30 e subito sono partiti i mezzi da Zano Decimo. Ma la giovane mamma era al termine della gravidanza, le contrazioni erano ravvicinate, la piccola aveva decisamente desiderio di nascere in fretta, cosa avvenuta mentre un'infermiera al telefono indicava a mamma e papà che cosa fare. Un successo anche per gli imprenditori della regione, il Salone del Mobile di Milano, in aumento le presenze e in aumento i contatti, soprattutto con la clientela estera, ma per aumentare la produzione servirà una manodopera che le aziende già faticano a trovare. È tornato il Salone del Mobile di una volta, quello dal quale si tornava con le agende piene di contatti da trasformare in affari tra qualche mese, soprattutto verso l'estero. In Friuli Venezia Giulia l'export del settore vale già più di 1,5 miliardi di euro ed ha avuto il più alto incremento a livello nazionale. Una fiera dalle presenze in crescita, in cui il 65% di compratori e operatori è arrivata dall'estero. È tornata soprattutto la Cina, dove si esporta Made in Italy d'alta gamma. Qualche committenza anche dei russi più capienti, che sono riusciti a espatriare e comprano per le loro abitazioni a Cipro o a Dubai, ci dice un imprenditore. Bene la fascia alta, meno il pannello, che risente di una flessione legata all'erosione del potere d'acquisto delle fasce medio-basse di popolazione, come fa notare Paolo Fantoni, presidente dell'omonimo gruppo. Di pari passo, gli elevati tassi di interesse stanno spingendo nel settore a posticipare qualche investimento, aggiunge Fantoni. Col freno a mano tirato anche mercati tradizionalmente più prudenti come quelli centroeuropei. Di riposizionamento dei mercati parla anche Alessandro Calligaris, dopo 2 anni post-pandemia andati molto forte. I punti interrogativi riguardano il personale, non solo per lo sciopero dei lavoratori del settore durante il salone, a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto a dicembre. Difficile reperire professionalità nel comparto. Jacopo Galli, presidente di categoria per Confindustria Alto Adriatico, teme per i prossimi 5-6 anni, quando un'intera generazione andrà in pensione. Cita la grave carenza di tappezzieri Matteo Tonon, presidente del cluster Legno Arredo. 15-20 anni fa, quando il comparto sembrava meno attrattivo, pochi ragazzi hanno iniziato allora percorsi professionali. I problemi quindi sono iniziati ben prima della pandemia, afferma, e si possono colmare solo investendo in percorsi di formazione sponsorizzati dalle stesse aziende. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone, in occasione della festa del patrono della città, nella sala consiliare del municipio, alle 12 sarà consegnato il 51esimo premio San Marco. I premiati di questa edizione sono Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico, che ha favorito l'insediamento dell'industria navalmeccanica a Pordenone e il rilancio internazionale dell'interporto. Altra premiata Roberta Maestro, ricercatrice presso il CRO di Aviano, in cui studia il corredo genetico di una cellula tumorale, e già medaglia d'oro alla sanità pubblica nel 2013. Infine, ultima premiata Mara Martini, atleta dello sci alpinismo, detentrice di 3 medaglie mondiali, che si è contraddistinta come esempio di tenacia e abnegazione. E torniamo alle celebrazioni del 25 aprile. La sezione di Spilimbergo dell'Ampi ha organizzato la deposizione di corone di alloro a lapidi commemorative dalle 9.30 a Barbeano, per poi proseguire a Estrago, Baseglia, al cimitero e in Piazza Garibaldi, a Pinzano al Tagliamento, deposizione di corone d'alloro a monumenti e lapidi dalle 9. A Sequals, al monumento ai caduti, la deposizione di corone alle 11.15. A Ronchi dei Legionari è in programma una cerimonia commemorativa in Piazza Unità alle 11. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella sala consiliare. A Cividale del Friuli il ritrovo per le celebrazioni è in Piazza della Resistenza al Monumento ai Caduti alle 9. A San Vito al Tagliamento alle 10.45 sotto la loggia comunale si terrà l'orazione di Giuliana Pigozzo, segretaria generale del sindacato pensionati CGL Pordenone, seguita da letture sulla Resistenza. A Brugnera ritrovo al Monumento ai Caduti di Maron alle 10.30 per la deposizione di una corona. A Sacile presso la caserma Slat per la deposizione di una corona d'alloro alle 9.15, poi al Monumento ai Caduti alle 9.30. A Campoformido, in Piazza del Trattato, presso il Monumento ai Caduti, si terrà l'alza bandiera alle 10, a cui seguirà l'intitolazione del parcheggio a Renzo Flaibani, grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica e fondatore della locale Associazione dei Combattenti e Reduci. Cambiamo argomento. Oggi il ballerino Roberto Bolle, étoile del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, ritorna a Trieste con il suo spettacolo Roberto Bolle and Friends, con un omaggio a Ezio Bosso, due brani inediti e Friends dal Royal Ballet di Londra e dalla Compagnia Nazionale di Danza di Madrid, oltre al danzatore triestino Thomas Jugovac. Lo spettacolo, inteso come strumento culturale di promozione della danza, proporrà scelte coreografiche vivaci, sorprendenti e poetiche, da Ben Stevenson a Riccardo Amarante. Appuntamento a Trieste, a Politeama Rossetti, alle 20.30. La maglia azzurra del martello alle Olimpiadi di Pechino e Rio, Marco Lingua, partecipa oggi alla 40ª edizione della manifestazione udinese di atletica Meeting Todaro alle oltre 430 gli atleti iscritti alla manifestazione che si svolgerà al campo di Mereto in mattinata per le gare di martello, mentre Maiano ospiterà le competizioni del pomeriggio con il resto dei lanci, la velocità, il mezzofondo e i salti. Tra i giovani portacolori dell'organizzazione, l'atletica Malignani, figurano Davide Vattolo e Alessandro Feruglio. Al via oggi a Gradisca di Sonzo e sui campi di Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia, il 19° piccolo mondiale di calcio giovanile. Il torneo delle nazioni vedrà protagoniste le categorie under 15 maschile e under 17 femminile. Il programma della prima giornata prevede i match Italia-Messico a Gradisca alle 18, Slovenia-Emirati Arabi Uniti a Nova Gorica alle 17, Eir Repubblica Ceca a Cesarolo alle 18 e Portogallo-Norvegia a Mauthen in Austria alle 17. 16 team presenti, di cui 12 nel torneo maschile e 4 in quello femminile. La nazionale azzurra under 15 è campione in carica. Basket femminile, nei playoff promozione della A2, la Delser Apu Women di Udine affronta in gara 2 a Broni in Lombardia. In caso di successo le friulane, che hanno vinto il primo match, accederanno alle semifinali, l'inizio alle 18. La rassegna stampa Mai dimenticare chi lottò contro il nazifascismo. Sulla prima pagina del piccolo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella per il 25 aprile. Più sotto, oggi in risiera l'omaggio nel luogo simbolo del martirio. Il titolo principale è sul lavoro e sulla qualità del lavoro che molto spesso viene offerto ai giovani. Il lavoro sottopagato. Prendevo 500 euro per 40 ore settimanali, io licenziata quando mi sono ammalata. Il tema è sviluppato alle pagine 6 e 7 del giornale, è ancora più chiara la titolazione. Fra orari pesanti e contratti fantasma, i giovani nella morsa del lavoro grigio, dai salari alle domeniche libere fino alle sacche di irregolarità. Le pagine sulla città, sul comprensorio di San Giovanni, OPP, nuova vita per Tre Ruderi, addio a Palazzina lungo dei Genti Tranquilli, vecchie cucine e lavanderia, i futuri spazi rinnovati al servizio dell'università. E poi un viaggio nelle sedi delle coop sociali, dalla Clou alla Lister, qui dove le coop offrono non solo lavoro ma anche speranza. Nello sport l'apertura è sui tifosi della Triestina. La Triestina ha cuore, uniti per ottenere la salvezza. Il presidente del centro di coordinamento Marassi a Cremona: grandi emozioni, ma è ancora dura e serve il pubblico. Già esaurito il primo pullman per Seregno contro il San Giuliano tra 2 settimane. L'apertura del Messaggero Veneto è per il Codroipese padre Luigi Cignolini, che ha deciso di rimanere in Sudan nonostante il ritiro di tutti gli italiani causato dalla guerra civile sul posto. Spazio poi a interviste a rappresentanti degli ordini professionali di medici e infermieri, che denunciano le continue minacce e violenze subite dalla categoria, considerate dai pazienti come capro espiatorio per tutte le inefficienze del sistema. L'edizione di Udine del Messaggero in fotonotizia mostra uno degli eventi di ieri del Far East Film Festival, e nell'interno il capocronaca è riservato alle ricadute economiche in città della rassegna. Le sanzioni previste a chi non rispetterà i regolamenti che sono in vigore per la dunata degli alpini in maggio aprono l'edizione di Udine del Gazzettino. La fotonotizia è dedicata all'organizzazione dei progetti per i quali l'azienda che gestisce i rifiuti NET ha ottenuto fondi dal PNRR, tra cui un centro raccolta rifiuti pericolosi in via Stiria. Spazio poi alle difficoltà delle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei tassi di interesse deciso dalle banche per contrastare l'inflazione. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Fotonotizia in apertura: l'arrivo dei dublinesi sull'atterraggio al Trieste Airport del primo volo dall'Irlanda. Il titolo principale è sulla crisi dei distributori di benzina. Pieno, consumi dimezzati, i gestori dicono la nuova fascia zero non porta benefici. Da metà gennaio la situazione è peggiorata. Nelle pagine di economia un titolo sul Salone del Mobile di Milano: record di visite dalla Cina, oltre 50 imprese dal Friuli Venezia Giulia. Fantoni afferma segnali di ottimismo nonostante le incertezze. La foliazione su Gorizia apre con 2 pagine dedicate alla difficile situazione dei gestori dei distributori di carburanti, presenti anche con diverse interviste. Il Monfalconese, titolo principale: la nuova scuola Sauro sarà spostata di 2 metri per salvare l'imponente cedro del Libano. Dopo aver staccato e messo in sicurezza il mosaico dell'ingresso, ora il comune ha provveduto a una modifica progettuale che eviterà l'abbattimento dell'albero, che ha una 60 anni. La situazione in un'altra scuola: all'ISIS turistico Pertini arrivati i container per ospitare gli studenti, saranno utilizzati con l'avvio del nuovo anno scolastico a rotazione per 4 classi, e ciò per consentire i lavori di adeguamento antisismico. L'ampliamento dei beneficiari agli sconti del parcheggio tra le strisce blu è fotonotizia e capocronaca interno dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, che pubblica anche un'analisi sulla situazione idrica a fronte delle ultime piogge. Il presidente del consorzio di bonifica, Celina Meduna, spiega che è ancora necessario il risparmio d'acqua a causa delle scarse nevicate invernali. Spazio poi un servizio che riporta i vari esercizi commerciali cittadini che oggi saranno aperti. Il possibile passaggio ai privati del servizio di radiologia, ora in valutazione da parte dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, è l'apertura dell'edizione di Pordenone del Gazzettino, che spiega come il progetto dovrebbe risolvere la carenza di personale. Spazio poi al progetto del compianto Enzo Kainero per il ritorno del Giro d'Italia in città. Altro servizio, quello sui 3 milioni e 700 mila euro necessari per costruire un polo energetico in Fiera, progetto che renderebbe l'area autosufficiente. Il vino e l'antico Egitto, breve excursus, è la conferenza organizzata alla Sagra del Vino di Casarsa della Delizia a Palazzo Burovic alle 17. Altro appuntamento della giornata, quello con Piccoli passi nella natura, una passeggiata per bambini e famiglie organizzata dalla Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore con avvio alle 10. E ora sono le 8:59 minuti. Chiudiamo questa edizione che ha avuto l'assistenza tecnica di Paolo Cassano e la collaborazione in redazione di Manuel Bussani. Il prossimo appuntamento è con l'edizione delle 12:30. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cajazza, buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.